La versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori, in qui in diretta 16:36 e 42 secondi. C'è una scommessa qui, su, iniziamo a 37 o meno, dagli studi Radio 24 di Milano. Oscar Giannino vi saluta, vi ringrazia, vi ricorda l'indirizzo mail, la versione di Oscar @radio24.it, e immediatamente vi dichiara il tema della giornata, dei pochi minuti in cui stiamo insieme anche oggi pomeriggio. Siccome mancano poche ore all'apertura delle urne in Scozia, tentiamo oggi una riflessione con un ospite che di lì segue professionalmente come giornalista quello che verrà e ha seguito i preparativi. Alcune domande per stimolarvi, per vedere se avete voglia di telefonare. Credete davvero che qualunque sia l'esito del referendum, sì o no, l'ultimo sondaggio stamattina dà in vantaggio 52% i no, quindi gli unionisti, rispetto al sì agli indipendentisti, ma con una percentuale di indecisi ancora molto alta, intorno al 14%, e ci sono su tutta la stampa britannica poi vaste interpretazioni su coloro che dichiarano sì o no, quanto siano sinceri, quanto sia politicamente corretto o scorretto. Insomma, si arriva a un risultato attaccato al punto percentuale, è ancora tutto da contare quello che avverrà. Ma credete che questo abbia un effetto al di fuori della Scozia e Gran Bretagna, un effetto europeo, un effetto anche italiano? Pensate che sia qualche cosa che può risvegliare cose che in Italia sono state dichiarate per tanti anni, l'indipendentismo del nord, la Lega eccetera, e poi hanno avuto un esito, a mio avviso, pari non solo a zero, ma a una accentuazione del centralismo in tutti questi anni, e che forse la dice lunga su chi ha sbagliato la strategia. Sto parlando della Lega rispetto a chi ha scelto di allearsi in tutti questi anni. Che cosa vorrà dire? Avremmo una Scozia, se vince il sì, che davvero, come dice il fronte del sì, resta con la sterlina, e quindi una separazione politica con una moneta unica in piccola scala, quello che in vasta scala è diventato il problema dell'Unione Europea, che ha una moneta unica ma non una politica comune? Oppure credete che l'Europa a quel punto aprirà all'adesione all'euro della Scozia, non della Gran Bretagna? Cosa succede a quel punto al referendum che è pendente, per così dire, che David Cameron aveva promesso senza mai però formalizzare la sua promessa agli elettori britannici, per rimanere o andarsene a propria volta come Regno Unito dell'Unione Europea? Sarà più facile che ne esca a quel punto nel referendum dell'Unione Europea piuttosto che restare, se vince il sì? Insomma, ci sono tantissimi interrogativi, e da questo punto di vista a provarsi un po' il colore, diciamo, nella stampa italiana, i whisky eccetera eccetera, sono enormi i punti aperti se vince il sì. Io dico solo, dal mio punto di vista, che per me è una lezione che non a caso viene dal paese a cui dobbiamo il liberalismo storico, cioè la Gran Bretagna, quella di Regno Unito e di Londra, che prende sul serio la richiesta degli scozzesi e quindi accetta con un accordo istituzionale del 2012 di far tenere questo referendum, basandolo sul principio: se gli scozzesi decideranno sì, prenderanno il destino nelle loro mani. Tutto ciò che invece nelle costituzioni continentali, quella italiana ma anche quella spagnola, perché c'è un problema della Catalogna, come sapete, con il governo centrale che richiama la Costituzione, che rende impossibile un referendum analogo, ma i catalani vogliono farlo comunque. Ecco, però io preferisco il modello storico, liberale, di chi accetta il rischio. Non è d'accordo, perché è ovvio che i conservatori e i laburisti sono tutti per il no, però accettano l'idea che siano gli scozzesi a decidere con un democraticissimo referendum, e vedremo poi quello che succede. Secondo me può mettersi in moto una cosa abbastanza imprevedibilmente devastante anche per l'Unione Europea, molto più di quanto i giornali vi abbiano spiegato, ma magari mi sbaglio. Chi è il nostro ospite? Sentendo da lui le cose come stanno e come le valuta, è Giancarlo Rinaldi. Giancarlo Rinaldi è un giornalista della BBC Scotland Online, ed è in Scozia appunto, e quindi professionalmente segue questa vicenda come tante altre. Io lo ringrazio di essere ai microfoni con noi. Buon pomeriggio e grazie, Rinaldi. Buon pomeriggio dalla Scozia. Allora, lei lavora per la BBC da quanto? Da sempre? Da sette anni ormai. Quindi lei è residente e vota dove? Voto in Scozia. Vota in Scozia. Non chiedo per cosa vota, ovviamente. Non posso svelare, esatto, questo. Però andrà a votare. Sì, perché la partecipazione è prevista altissima tra gli scozzesi. Sì, si parla dell'80-85% perché che per la Scozia è altissimo. È altissimo. Allora, nell'appello finale che Salmond, il premier leader del movimento indipendentista scozzese, ha rivolto agli elettori scozzesi, a me è piaciuto molto, molto naturalmente caloroso, per così dire, è un appello a prendere il destino nelle proprie mani, ma senza nascondere però i problemi che ci saranno. Cosa succede in caso di vittoria col sì? È già instradato nell'accordo del 2012 tutti i temi complessi del negoziato su come a quel punto bisogna spartirsi o meno le risorse, quelle energetiche, come si fa con la moneta, che cosa succede se vince il sì? Se vince il sì ci sarà un dialogo molto lungo, penso, perché ci sono tante cose da dividere e quasi quasi è stato paragonato a un divorzio, no? E adesso dovranno dividere i beni tra uno e l'altro, anche i debiti, e quindi sarà un processo molto lungo, penso. E da questo punto di vista a me ha colpito una cosa. Io ho tentato di seguire, diciamo, il dibattito sui media britannici e scozzesi. Mi ha colpito una cosa: durante la campagna elettorale c'è stato un confronto molto tosto, perché tutti i leader nazionali, a cominciare dal premier David Cameron, da quelli liberal democratici e anche laburisti, ex leader anche come Gordon Brown, si sono molto impegnati tutti per il no. Quello che mi ha colpito è che è stata una campagna elettorale però in cui fronte indipendentista e i fautori del no non si insultavano a vicenda. È vero o mi sono perso qualcosa? Cioè un tono tosto, duro, ma senza insulti a cui siamo abituati nella politica italiana. È così? Direi di sì. La maggior parte ci sono stati degli incidenti ieri, quando è venuto Ed Miliband, i laburisti in Scozia, c'è stata qualche piccola scaramuccia, ma niente di grave, direi. È stato un dibattito forte, ma è molto sentito, ma anche molto civile, direi. Molto civile, io su questo sono molto d'accordo, anche perché in un'Europa in cui vediamo cosa succede con l'Ucraina, la Russia e così via, e l'incapacità europea e anche italiana di capire, la mia opinione è che lì, non avendo capito dall'inizio che noi dovevamo fare una scelta a favore della, diciamo così, delle minoranze ucraine democratiche, abbiamo da una parte perso di vista il fatto che poi nel fronte ucraino di Kiev c'era una deriva a destra nazionalista molto preoccupante, dall'altra abbiamo a quel punto chiuso gli occhi su quello che faceva veniva a est con la Russia, ed eccoci qua, è una crisi molto molto grave e molto seria, mentre invece lì c'è una grande civiltà, però i problemi sono immensi. Io leggevo stamattina che per esempio sulla stima di una delle grandi armi del fronte indipendentista, cioè il petrolio del mare del nord, che per ragioni geografiche dovrebbe diventare a quel punto per più dell'80% di pertinenza con le royalties del bilancio di una Scozia separata, anche su quello ci sono stime contrapposte sia sull'entità dei giacimenti sia su quello che poi ne deriva alla finanza pubblica scozzese separata da quella britannica. Un punto che poi colpisce anche, su cui le chiedo qualche chiarimento, è che in realtà i conservatori britannici sono molto contrari, però contemporaneamente se la Scozia se ne va per il partito conservatore è un bel vantaggio, perché i laburisti oggi eleggono 40 parlamentari in Scozia, cioè una maggioranza schiacciante a sinistra. Se la Scozia se ne va, i conservatori governano l'Inghilterra praticamente con maggiore certezza. È così o no? Ma sembrerebbe di sì, i conservatori sono in una posizione interessante da questo punto di vista, perché storicamente una volta avevano tanti posti al Parlamento in Scozia, ma adesso rimane soltanto uno, proprio al sud della Scozia dove sto parlando io, adesso c'è rimasto solo uno, e quindi ci sarebbe la tentazione di mandar via la Scozia e governare il resto del paese. Però il nome del partito è Conservative e Unionist Party, quindi non può venir meno a questo, perché sta nel nome della ditta, per così dire. Infatti. Però infatti, contemporaneamente, in realtà uno dei temi dominanti di chi vota sì è quello di dire la politica che ci impone Londra è più di destra di quello che vorremmo. Noi vorremmo una politica per welfare, per eccetera eccetera, che la preminenza di questo governo conservatore, che è estraneo alla rappresentanza degli interessi dei 40 su 41 parlamentari eletti in Scozia, sono 40 sono laburisti, spinge molto a una svolta di questo tipo. Sarebbe una Scozia con tasse più alte quella di se vince Salmond nel sì? Ma potrebbe essere questo, hanno detto di no, o se saranno più alti, di poco più alti, però questo è difficile. L'argomento economico è proprio stato al centro del dibattito per mesi e mesi, e ancora oggi non c'è chiarezza su cosa avverrebbe. Perché per esempio il fronte del no è il governo, anche David Cameron ha detto, beh, cari amici scozzesi, quando si è trattato di salvare Royal Bank of Scotland nel 2008 nella crisi, non è che Londra si è messa a dire una banca scozzese piuttosto che con sede a Londra, l'abbiamo salvata, e in quel caso poi ci dovreste pensare voi. Molte grandi banche potrebbero trasferire la propria sede a Londra in caso di vittoria del sì, è così o no? Sì, hanno detto così. I nazionalisti dicono che è soltanto una mossa superficiale, cioè per influenzare l'elettorato, manderebbe a Londra qualcosa, ma non la gente, non quelli che lavorano, i soldi rimanerebbero in Scozia. Però anche questo è stato al centro del dibattito. Perdere dei posti di lavoro così sarebbe una perdita gravissima per la Scozia, ovviamente. Che sentite rimbombare con una registrazione di studi mondiali, quindi è chiaramente un coro da stadio, però è l'inno scozzese, per così dire. Siccome spesso vi ho inflitto negli anni, è capitato anche chi cantassi God Save the Queen, oggi mi piace questa cosa. Devo dirvi la verità, io se fossi uno scozzese, con tutto che Adam Smith, sono liberista, era un unionista, oggi sarei molto tentato di votare per il sì. Io credo nel fatto che i vecchi stati nazionali non servano più a niente, sono in grande crisi. E a me non dispiace per niente l'idea di un'Europa che è fatta di regioni che sono economicamente più convergenti tra loro. Però questa è la mia personalissima opinione, e io credo che in Italia abbia sbagliato tutto chi ha detto lavoriamo sulle macro regioni e poi si è alleato, ha fatto una grande alleanza nord-sud senza capo né coda. Però questa è la mia opinione. Allora, abbiamo chiesto due cose a Giancarlo Rinaldi e lui cosa ci risponde? C'è un'analogia con l'Italia? Io credo di no, però vediamo cosa dice lui. E poi la seconda domanda che gli aveva fatto. Prego Rinaldi. Ma sull'influenza sull'Italia ho dei dubbi, perché la storia della Scozia è assai diversa da quelle delle regioni dell'Italia che vorrebbero l'indipendenza. Quindi se il voto va sì, certamente avrà un po' di influenza sull'Europa e quelli che vogliono l'indipendenza, certo. Però bisogna tenere in mente, credo che valga più per la Catalogna se vince il sì, con questa cosa. Questo io sono molto convinto di questo. Ma lei crede all'ipotesi che Londra dica davvero no alla sterlina se la Scozia diventa indipendente, e a quel punto che i membri dell'euro, l'Eurolandia, possa dire vabbè, se volete vi prendiamo nell'euro? Quello mi sembra difficile, ecco. Perché hanno sempre detto che non ti diamo la sterlina, però alla fine tutti qui in Scozia sono convinti che alla fine daranno la sterlina. Qui ci sono Scozia. Stati nel frattempo in queste settimane economisti di scuole diverse, non solo ovviamente Paul Krugman ma anche Paul De Grove e così via, che hanno ammonito gli scozzesi a non farsi illusioni su questo, perché sarebbe comunque una scelta non felice quella di stare sotto una sterlina con Bank of England, rispetto al quale poi loro avrebbero un'indipendenza politica dal governo di Londra. Però su questo vediamo, sarebbe un esperimento inedito, per così dire. Sentiamo alcuni nostri ascoltatori come la pensano. Giancarlo, che ci chiama da Prato. Prego Giancarlo. Sì, buonasera a tutti. Buonasera. Io penso che in ogni caso la forza dello scozzese dell'indipendentismo c'è ormai da tempo conclamata. Penso però che loro abbiano voluto alzare il piatto, che alla fine non passerà il sì. E questo lo vediamo, Giancarlo. Però sottolineo, io ho una stima assoluta del governo di Londra, che con un negoziato con i rappresentanti locali scozzesi, perché Salmond ci ha fatto un enorme investimento, il leader degli indipendentisti, il premier scozzese, su questo, ha deciso di accettare il rischio di una scelta autonomista degli elettori della Scozia. A me sembra una prova straordinaria di serietà della politica, altro che dire no. facciamo decidere. È un rischio, certo, nessuno può sapere poi cosa succede, però è una prova di grande civiltà politica democratica. Dire no, la Costituzione non lo consente, a me non mi sembra una grande trovata. Quello che abbiamo sentito, alcuni di voi chiedevano, era l'inno Flower of Scotland, da Emmett MacDonald che lo cantava. Lorenzo da Padova, prego Lorenzo, come la pensi? Sì, ciao. Dunque, io ho avuto la fortuna di vivere in Scozia per un anno. Sì. Ma dico fortuna perché ho notato la vera differenza che c'è tra il popolo inglese e il popolo scozzese, che è basata sulla storia, logicamente, ma soprattutto per un'identità nazionale molto presente dall'inno scozzese, che è nato poi negli anni 70, non stiamo scavando nel tempo. Sì. Non era quello di Braveheart. Esatto, l'identità poi che c'è all'interno della Scozia va oltre i confini tra Glasgow e Edimburgo, ma arriva fino su nel nord. Sì. E il rispetto per la bandiera, quindi quei valori fondamentali. Quindi tu, insomma, dici un popolo. L'indipendentismo potrebbe portare una vittoria perché ha ragioni vere e profonde, radicate. Ha ragioni vere, e in più anche la moneta, la sterlina. Non dimentichiamo che le banconote della Royal Bank of Scotland sono, diciamo, coniato in Scozia stesso, sebbene sia al pari cambio 1-1. Quindi allora, questo mi tocca spiegare, pesante, Lorenzo, mi tocca spiegare che è un legal tender, cioè è una moneta che ha corso legale, ma tutti gli intermediari commerciali hanno la facoltà di non respingerla. A quel punto chi ha le monete della Bank of Scotland può chiedere il cambio alle banche. Funziona così, non so quanti lo sapessero. Cosa diversa però in caso di separazione, voglio dire anche a chi chiede, non succede niente da un giorno all'altro, perché siccome è un accordo istituzionale serio quello che ha portato al referendum, fino al 2016 la garanzia sulle pensioni, sulle banche, sulla copertura fino a 85.000 pounds per ogni banca in cui c'è il conto, resta quella come se ci fosse l'unità tra i due paesi, cioè si sono già posti al riparo. È vero Giancarlo Rinaldi, è così, cioè non è che da un giorno all'altro chissà cosa succede. Sì, sì, no, infatti ha spiegato meglio di me la posizione, proprio così. Sarà, se voterò sì, ci sarà un periodo molto lungo di transizione per adottare tutte queste cose. E speriamo che venga una grande lezione di democrazia dal basso, però se anche secondo me purtroppo vinceranno e no, vediamo, comunque ci sarà sempre comunque molto da riflettere e da imparare. Grazie a Giancarlo Rinaldi, continuate con Radio 24, appuntamento come a domani.